Cammino a scuola e sento già una compagna accanto a me ci sarà. Non ha paura, porta bontà, il suo sorriso attraversa l'eternità. Agata, luce di libertà, ci insegna a scegliere la verità. Cuore forte e mano che dà, sei un'amica che ci guiderà. Tra le strade bianche della città, la tua storia ancora ci parla qua. Chi dice no al male vincerà, anche se il mondo non lo capirà. Agata, luce di libertà, ci insegna a scegliere la verità. Cuore forte e mano che dà, sei un'amica che ci guiderà. Città, la tua storia ancora ci parla qua. Chi dice no al male vincerà, anche se il mondo non lo capirà. Agata, luce di libertà, ci insegna a scegliere la verità. Cuore forte e mano che dà, sei un'amica che ci guiderà. Ci guiderà.